Capitolo 20. Quanto costano le perle? Una sera di fine marzo, Gilbert e Anna andarono a una cena con amici a Charlottetown. Anna indossò il suo nuovo vestito verde ghiaccio decorato d'argento intorno al collo e alle braccia, al dito lo smeraldo di Gilbert e al collo la collana di Jem. «Non mi sono trovato una bella moglie, Jem?» chiese papà con orgoglio. Jem pensava che la mamma era molto bella e il suo vestito incantevole. E come erano graziose le perle, guardandole intorno alla bianca gola della mamma. Aveva sempre voluto vedere la mamma elegante, ma la preferiva ancora di più quando non indossava abiti troppo fastosi, perché la trasformavano in un'estranea, non era più la sua mamma. Dopo cena, Jem andò al villaggio per fare una commissione per Susan, e fu mentre era in attesa nel negozio di Mr. Flagg, piuttosto preoccupato che potesse entrare Sissy come faceva a volte e si comportasse in modo troppo amichevole con lui, che arrivò la botta, un colpo disastroso che distrusse ogni illusione. È così terribile per un bambino, perché è così inaspettata e così apparentemente inevitabile. Due ragazze erano davanti all'espositore di vetro dove Mr. Carter teneva le collane, i braccialetti a catena e i fermagli per i capelli. «Non sono belli?» Quei fili di perle, disse Abby Russell. Si potrebbe quasi pensare che sono vere, disse Leona Reese. Le due ragazze se ne andarono del tutto inconsapevoli di quello che avevano fatto a quel bambino seduto sul barilotto dei chiodi. Jem continuò a stare lì fermo per un po' di tempo. Era incapace di muoversi. Che c'è, figliolo? Domandò Mr. Flagg. Sembri preoccupato? Jem guardò Mr. Flagg con gli occhi della tragedia. La sua bocca era stranamente asciutta. Per favore, Mr. Flagg, quelle sono. Quelle collane sono perle vere, non è vero? Mr. Flagg rise. No, Jem, ho paura che non sia possibile comprare perle vere con 50 centesimi, lo sai? Una collana di perle vere come quella costerebbe centinaia di dollari. Sono solo a forma di perle e molto a buon prezzo pure. Le ho comprate ad una vendita fallimentare. È per questo che io posso venderle così a buon mercato. Normalmente si vendono a un dollaro. Ne è rimasta solo una. Si vendono come il pane. Jem scivolò giù dal barilotto e se ne andò, dimenticando tutto quello che doveva fare per Susan. Camminò ciecamente per una strada ghiacciata su verso casa. Sopra la sua testa c'era un duro, buio cielo invernale. C'era quello che Susan chiamava una sensazione di neve nell'aria e un velo di ghiaccio sulle pozzanghere. Il porto era nero e cupo tra i suoi nudi banchi. Prima che Jem raggiungesse casa, una burrasca di neve li aveva imbiancati. Avrebbe voluto che fosse caduta neve e neve e neve fino a quando lui fosse stato sepolto e tutti fossero stati sepolti con lui a varie braccia di profondità. Oh, non c'era giustizia nel mondo. Jem aveva il cuore spezzato. Nessuno si doveva fare beffe del suo dolore per disprezzarne il motivo. Oh, la sua umiliazione era totale e completa. Aveva dato alla mamma quello che credeva fosse una collana di perle ed era solo una stupida imitazione. Che cosa avrebbe detto lei? Che cosa avrebbe provato quando lo avesse saputo? Naturalmente a lei doveva essere detto. Jem non aveva mai pensato per un solo attimo che lei non dovesse saperlo. La mamma non doveva essere presa in giro ulteriormente. Lei doveva sapere che le sue perle non erano vere. Oh, povera mamma, era stata così orgogliosa delle perle. Non aveva forse visto l'orgoglio splendente nei suoi occhi quando lei lo aveva baciato e lo aveva ringraziato per le perle. Jem scivolò dalla porta laterale e andò dritto a letto. Walter era già addormentato profondamente. Jem non riusciva a dormire, era sveglio quando la mamma tornò a casa e piano entrò a controllare che lui e Walter fossero ben coperti. Jem, caro, sei ancora sveglio a quest'ora? Ti senti poco bene? No, mamma, ma sono molto, molto infelice qui, cara mamma, disse Jem, mettendo la mano sulla pancia, ingenuamente credendo che lì ci fosse il cuore. Qual è il problema, caro? Io c'è qualcosa che ti devo dire, mamma. Sarai terribilmente delusa, mamma, ma non ho intenzione di ingannarti, mamma, davvero non lo sapevo. Sono sicura che non lo sapevi, caro. Cos'è? Non aver paura. Oh, mamma cara, quelle perle non sono perle vere. Io pensavo che lo fossero, pensai che erano, io credevo. E gli occhi di Jem si riempirono di lacrime. Non riusciva a continuare. Se Anna desiderava sorridere sul suo viso, non c'era traccia di sorriso. Shirley quel giorno aveva urtato la testa. Nancy era slogata una caviglia. Dee aveva perso la voce per il raffreddore. Anna aveva baciato e fasciato e placcato. Ma questo era diverso. Per questo serviva tutta la segreta sapienza delle mamme. Jem, tesoro, non ho mai pensato che tu credessi fossero perle vere. Sapevo che non lo erano. Almeno. In un certo senso sono false, ma dall'altro senso sono le cose più vere che io abbia mai ricevuto, perché c'è dell'amore, del lavoro e del sacrificio in loro, e questo le rende più preziose di tutte le gemme che i subacquei possano pescare nel mare e riportare alle regine. Tesoro, io non cambierei le belle perline per la collana che un qualche milionario. L'ho letto la notte scorsa, ha dato alla sua sposa che è costato 500.000. Questo dovrebbe mostrarti ciò che il tuo dono vale per me, il più caro dei cari piccoli figli. Ti senti meglio adesso? Oh, Gem era così felice che si vergognava. Temeva che fosse troppo infantile essere tanto contento. Oh, beh, la vita è di nuovo sopportabile ora, disse con cautela. Le lacrime erano sparite dai suoi occhi scintillanti e tutto andava di nuovo bene. Le braccia della mamma erano intorno a lui. La mamma amava la sua collana, nient'altro importava. Un giorno le avrebbe dato quella che costava non un semplice mezzo, ma un intero milione. Nel frattempo era stanco. Il suo letto era molto caldo e accogliente, le mani della mamma profumavano come le rose e lui non odiava più Leona Rise. Mamma cara, tu sembri così dolce con quel vestito, disse assonnato. Oh, dolce e pura, pura come il cacao Epps. Anna sorrise mentre lo abbracciava e pensò a una cosa ridicola che aveva letto in una rivista medica quel giorno, firmata dottor VZ Tomaciowski. Non devi mai baciare un tuo figlio da piccolo perché si potrebbe configurare il complesso di Giocasta. Lei ci aveva riso sopra al momento e si era pure un po' arrabbiata. Ora provava solo compassione per il poveretto che aveva scritto una cosa del genere. Oh, povero, povero uomo! Ovviamente VZ Tomaciowski era un uomo. Nessuna donna avrebbe mai scritto qualcosa di così stupido e malvagio. Capitolo 21. Il necrologio. E aprile quell'anno arrivò in punta di piedi e in bellezza per alcuni giorni, con la luce del sole e delicati venti, e poi un'intensa tempesta di neve scese da nord-est e calò nuovamente una coperta bianca sopra il mondo. Nel mese di aprile la neve è abominevole, dichiarò Anna, come uno schiaffo in faccia quando ci si aspetta un bacio. Ingleside era contornata da ghiaccioli e per 2 lunghe settimane ci furono giornate gelide e notti crudeli. Poi la neve malvolentieri scomparve e quando giunse la notizia che qualcuno aveva visto il primo pettirosso nella conca, il cuore di Ingleside riprese coraggio a credere che il miracolo della primavera davvero stesse per accadere di nuovo. «Oh mamma, che profumo di primavera c'è oggi!» esclamò Nan, deliziata mentre annusava la fresca aria umida. Mamma, la primavera è proprio un periodo entusiasmante. In quei giorni la primavera stava provando i suoi primi passi, proprio come un'adorabile bambina o bambino che imparano a camminare. I caratteri invernali degli alberi e dei campi cominciavano a essere sovrapposti alle verdi note e Gemma aveva nuovamente portato i primi Mayflowers. Ma una signora, grassa ed enorme, affondando in una poltrona, facendola sbuffare da Ingleside, sospirò e disse con tristezza che le primavere non erano così belle come lo erano quando lei era giovane. «Non pensi che forse il cambiamento è in noi e non nelle primavere, Mrs. Mitchell?» sorrise Anna. Forse è così. Mi rendo conto che sono cambiata fin troppo bene. Non credo che a guardarmi potresti pensare che una volta ero una delle più belle ragazze di queste parti. Anna rifletté che lei di certo non lo pensava. La rada e scarmigliata capigliatura color topo della signora Mitchell era coperta da una crespa cuffia e da un lungo ampio velo da vedova rigato di grigio. I suoi occhi azzurri impassibili erano sbiaditi e vacui. Considerare il suo doppiamento era peccare per eccesso di carità. Ma la signora Anthony Mitchell si sentiva abbastanza soddisfatta proprio perché in quel periodo nessuna a Four Winds aveva abiti da lutto migliori dei suoi. Il suo voluminoso vestito nero aveva una fascia da lutto all'altezza delle ginocchia. In quei giorni le donne si mettevano in lutto senza esclusione di colpi. Ad Anna fu risparmiata la necessità di dire qualcosa, dato che la signora Mitchell non gliene dava la possibilità. Il mio sistema di acqua dolce si è asciugato questa settimana. Ci deve essere una perdita. E così sono scesa al villaggio questa mattina per chiedere a Raymond Russell di venire a risolvere il problema. E mi sono detta, ora che sono qui, mi limiterò ad andare fino a Ingleside e a chiedere alla signora dottora Blight di scrivere un necrologio per Anthony. Un necrologio? Disse Anna con aria assente. Sì, quelle cose che si mettono sui giornali riguardo la gente morta, sai cosa voglio dire? Spiegò la signora Anthony. Voglio che Anthony ne abbia uno veramente bello, qualcosa fuori dal comune. Tu scrivi delle cose, non è vero? Sì, ogni tanto scrivo dei piccoli racconti, ammise Anna, ma una madre impegnata non ha molto tempo per questo. Una volta facevo sogni meravigliosi, ma ora ho paura che non sarò mai nelle biografie di personaggi famosi, signora Mitchell. E poi non ho mai scritto un necrologio in vita mia. Oh, non possono essere difficili da scrivere. Il vecchio zio Charlie Bates, un vicino di casa, li scrive prevalentemente per Lower Glen, ma non è molto poetico. E ho deciso che voglio una vera poesia per Anthony. È sempre stato così appassionato per la poesia. Ero la settimana scorsa a sentire la lezione che ha fatto sui bendaggi al Glen Institute e mi sono detta: chiunque con una tale parlantina è più che probabile che possa scrivere un vero e proprio necrologio poetico. Lo farà per me, non è vero, signora Blythe? Ad Anthony sarebbe piaciuto. L'ha sempre ammirata. Una volta ha detto che quando lei entrava in una stanza tutte le altre donne sembravano comuni e mediocri. A volte parlava davvero poeticamente. Però le sue intenzioni erano buone. Ho letto un sacco di necrologi, li ho raccolti e messi in un grande album, ma mi sembrava che non gliene piacesse neanche uno. Aveva l'abitudine di ridere leggendoli così tanto. Ed è il momento di fare qualcosa perché lui è morto 2 mesi fa. È morto lentamente, senza soffrire. Se n'è andato in primavera. Momento poco opportuno per chiunque di morire, signora Blight, ma ho cercato di fare del mio meglio. Immagino che lo zio Charlie si arrabbierà molto se farò scrivere a qualcun altro il necrologio di Anthony, ma non mi interessa. Zio Charlie è un meraviglioso fiume di parole, ma lui e Anthony non sono mai andati troppo d'accordo e, lungo o breve che sia, non ho intenzione di fargli scrivere il necrologio per Anthony. Io sono stata la moglie di Anthony, sua moglie, fedele e amorevole per 35 anni, 35 anni, signora Blythe. Come per paura che Anna avesse capito solo 34. E io voglio avere un necrologio che gli piacesse, anche se mi dovessi amputare una gamba, che era quello che mia figlia Serafin mi disse. Lei è sposata a Lowbridge, lo sa. Un bel nome Serafin, non è vero? Lo trovai su una pietra tombale. Ad Anthony non piaceva, voleva chiamarla Judith. Dietro a quel nome c'era sua madre, ma io gli dissi che era un nome troppo solenne. E quindi accettò con grande generosità. Non era per le discussioni, tuttavia l'ha sempre chiamato Seraph. E cosa stavo dicendo? Sua figlia diceva: Oh, sì, Seraphin mi disse: Mamma, qualsiasi cosa tu hai deciso di fare va bene, ma per papà devi fare un necrologio davvero gradevole. Lei e suo padre erano molto uniti, benché a volte si prendessero gioco di lei, ma con me faceva la stessa cosa. Vero che lo farà, signora Blythe? Io davvero non so molto di suo marito, signora Mitchell. Oh, di lui le posso raccontare tutto io. Basta che non mi faccia domande sul colore dei suoi occhi. Sa, Signora Blythe, io e Serafin dopo il funerale ci siamo messi a chiacchierare sugli ultimi eventi e mi sono accorta che non potevo parlare del colore degli occhi di Anthony, dopo aver vissuto con lui 35 anni. Comunque erano indulgenti e sognatori. Aveva l'abitudine di guardare in modo implorante quando mi faceva la corte. È stato molto difficile conquistarmi, signora Blythe. È stato per anni pazzo di me. Allora ero piena di esuberanza ed ero determinata a scegliere con attenzione. La storia della mia vita potrebbe essere molto eccitante. Se mai lei fosse a corto di materiale, signora Blythe. Ah, beh, quei tempi sono andati. Ho avuto più corteggiatori di quanti si possa immaginare. Ma continuavano ad andare e venire e Anthony continuava a venire. Era pure un tipo di bell'aspetto, un uomo gradevole, snello. Ho sempre odiato gli uomini grassocci. E lui era pure di una o due classi superiori a me, sarei l'ultima a negarlo. Sarebbe un passo in avanti per un plumber se sposi un Mitchell, disse la mamma. Io ero una plumber, signora Blythe, figlia di John Plummer. E mi ha gratificato con deliziosi e romantici complimenti, signora Blythe. Una volta mi disse che avevo il fascino etereo della luce della luna. Sapevo che voleva dire qualcosa di carino, anche se non so ancora oggi cosa significasse etereo. Ho sempre pensato di cercarlo nel dizionario, ma non ho trovato mai il tempo per farlo. Beh, comunque, alla fine ho dato la mia parola d'onore che sarei stata la sua sposa. Cioè, voglio dire, dissi che ho accettato. Ah, ma se lei mi avesse visto col mio abito da sposa, signora Blythe, tutti dicevano che ero davvero attraente, sottile come una trota, con i capelli gialli come l'oro, e che carnagione avevo. Ah, il tempo. Ci porta a modifiche terribili. Lei non è ancora arrivata a quel punto, signora Blythe. Lei è ancora proprio bella, una donna estremamente istruita per giunta. Ah, beh. Non possiamo essere tutti intelligenti. Alcune di noi devono pure avere a che fare con la cucina. Quel vestito è veramente bello, signora Blythe. Ho notato che lei non veste mai di nero. Ha ragione. Però non ci vorrà molto che lo indosserà anche lei. Io dico, rimanda finché non devi. Beh, dov'ero rimasta? Stava, ecco, cercando di dirmi qualcosa riguardo al signor Mitchell. Oh sì, beh, sì, ci siamo sposati. C'era una grande cometa quella notte. Ricordo di averla vista mentre andavamo a casa. È un vero peccato che lei non abbia potuto vederla, signora Blythe. Era semplicemente meravigliosa. Non credo che si riesca a inserire nel necrologio. Ci riuscirà? La cosa potrebbe essere piuttosto difficoltosa. Beh, la signora Mitchell sulla cometa si arrese con un sospiro. Dovrà fare del suo meglio. Non ha avuto una vita molto eccitante. Si è ubriacato una volta, disse che voleva solo vedere per una volta qual era l'effetto. Era sempre così curioso della tortuosità della mente umana. Naturalmente questo non può scriverlo in un necrologio. Non gli è mai capitato niente di altro eccitante. Non per lamentarmi, ma era un dato di fatto che fosse un po' inetto e piuttosto accomodante. Stava seduto un'ora intera per esaminare una malva rosa. Era così appassionato di fiori. Odiava tagliare il prato perché così tagliava i ranuncoli. Non importava se il raccolto di grano andava male, fin tanto che c'erano soffioni e verghe d'oro. E gli alberi, ah, oh, quelli del suo frutteto. Gli ho sempre detto, scherzando, che aveva più cura per i suoi alberi che per me. E la sua fattoria. Ah, come amava il suo pezzetto di terra. Sembrava considerarlo un essere vivente. Quante volte l'ho sentito dire: penso che uscirò a parlare un po' alla mia fattoria. Diventati anziani, volevo che la vendesse, e visto che non avevamo i ragazzi, ritirarci a Lowbridge. Ma lui diceva: io non posso vendere la mia fattoria, non posso vendere il mio cuore. Gli uomini non sono buffi. Poco tempo prima di morire gli venne voglia di una gallina bollita per la cena, cotta nella maniera che sai tu, mi disse. Ha avuto sempre un debole per la mia cucina. Non per vantarmi, l'unica cosa che non poteva sopportare era la mia insalata di lattuga con la frutta secca. Diceva che la frutta secca era proprio un dannato imprevisto. Ma non c'era una gallina disponibile. Erano tutte ottime per deporre le uova, c'era rimasto solo un gallo e naturalmente non potevo ucciderlo. Ah, proprio mi piace vedere i galli andarsene in giro tutti impettiti. Non c'è niente di più attraente che un bel gallo. Che ne pensa, signora Blythe? Beh, dove ero rimasta? Stava dicendo che suo marito voleva una gallina cucinata da lei. Oh, sì, e sono proprio dispiaciuta di non averlo fatto. Mi svegliai nella notte a pensarci, ma non sapevo che stava per morire. Signora Blythe, non si lamentava mai. Diceva sempre che stava meglio. Si è interessato di tutto fino alla fine. Se avessi saputo che stava per morire, signora Blythe, gliel'avrei cucinata una gallina, uova o non uova. E la signora Mitchell si tolse degli scoloriti mezzi guanti di pizzo nero e si asciugò gli occhi con un fazzoletto con un orlo nero di almeno 2 pollici. Oh, con che gusto l'avrebbe mangiata! Singhiozzò. Ha avuto i suoi denti fino alla fine, povero caro. Beh, comunque, piegò il fazzoletto e rimise i mezzi guanti. Aveva 65 anni, quindi non era lontano dall'età adatta per morire. E ora ho un'altra targa da feretro. Ho iniziato a collezionare le targhe da feretro contemporaneamente a Mary Martha Plummer, ma ben presto mi ha superata in quantità. Molti dei suoi parenti sono morti, per non parlare dei suoi 3 figli. Lei possiede targhe da feretro più di chiunque altro da queste parti. Non sembrava che avessi molta fortuna, ma alla fine ho la mensola del caminetto completamente piena. Mio cugino, Thomas Bates, è stato sepolto la settimana scorsa ed io volevo che la moglie avesse la targa, ma lei l'ha fatta seppellire con lui, dicendo che la raccolta delle targhe è un retaggio barbaro. Era una Hampson e gli Hampson sono sempre stati strani. Beh, dov'ero rimasta? Anna davvero non seppe cosa rispondere alla signora Mitchell su dove riprendere il discorso. Le targhe da feretro l'avevano un po' stordita. Oh, beh, il fatto è che il povero Anthony è morto. Sono felice e in pace, è stato tutto quello che ha detto. Ma sorrideva vicino alla fine, non a me e neanche a Serafin, al soffitto. Ero così lieta che fosse così felice proprio prima di morire. Ci sono state delle volte che ho pensato che forse non era abbastanza felice, signora Blythe. Era così impressionabile e sensibile, ma era veramente nobile e sublime nella sua bara. Abbiamo avuto uno splendido funerale, è stata una bella giornata. L'abbiamo seppellito con un mucchio di fiori. Ho avuto un mancamento al termine, ma per il resto tutto è andato liscio. L'abbiamo seppellito nel cimitero di Lower Glen, anche se tutta la sua famiglia è stata sepolta in quello di Lowbridge. Ma lui aveva scelto il suo cimitero molto tempo fa, disse che voleva essere sepolto vicino alla sua fattoria, dove poteva sentire il mare e il vento tra gli alberi. Ci sono alberi intorno ai 3 lati del cimitero, lo sa? Sono contenta, tanto. Ho sempre pensato che solo in un piccolo cimitero accogliente si potevano crescere e mantenere gerani sulla sua tomba. Era un uomo buono. Ora è sicuramente in paradiso. Così questo non dovrebbe essere un problema per lei. Ho sempre pensato che deve essere difficile scrivere un necrologio quando uno non sa dov'è il defunto. Posso contare su di lei, signora Blythe? Anna acconsentì. Aveva la sensazione che la signora Mitchell sarebbe rimasta lì a parlare fino a quando non avrebbe dato il consenso. Con un altro sospiro di sollievo, la signora Mitchell riuscì a sollevare la sua enorme mole umana dalla sedia. Devo andare. Mi aspetta una schiusa di giovani tacchini oggi. Mi sono goduta questa conversazione con lei. Avrei voluto rimanere più a lungo. Si sente molto la solitudine nell'essere una vedova. Un uomo può anche valere poco, ma senti la sua mancanza quando se ne va. Anna cortesemente l'accompagnò giù per la passeggiata. I bambini stavano inseguendo dei petirossi sul prato mentre le giunchiglie spuntavano dappertutto. Hai una casa bella e fiera qui, davvero una bella e fiera casa, signora Blythe. Ho sempre pensato al piacere di una grande casa, ma solo noi e Serafin e i soldi, dove li avremmo presi? E comunque Anthony non ne avrebbe voluto sapere, era troppo affezionato a quella vecchia casa. Ho intenzione di venderla se ricevo un'offerta adeguata. Andrò a vivere a Lowbridge o a Mowbray Narrows. Qualunque sarà la decisione, sarà il luogo migliore per vivere da vedova. L'assicurazione di Anthony tornerà utile. Si dica quello che si vuole, ma è più facile sopportare un dolore pieno che uno vuoto. Lo scoprirà quando sarà una vedova. anche se mi auguro che ci voglia ancora una buona quantità di anni. Sta invecchiando bene il dottore. È stato un inverno con tanti malati, così lui ne avrà ricavato un bel guadagno. Oh, ma che bella famiglia che ha. Tre ragazze. Piacevoli adesso. Ma aspetti, finché non arriverà l'età dell'impazzimento per i giovani. Non che io abbia avuto molta difficoltà con Serafin, lei era tranquilla come suo padre e testarda come lui. Quando si innamorò di John Whittaker, si decise a sposarlo, benché io decisi il contrario. Un albero di sorbo? Perché non l'avete piantato davanti alla porta? Avrebbe tenuto fuori le fate. Oh, ma chi vorrebbe tenere fuori le fate, signora Mitchell? Ora sta parlando come Anthony. Stavo solo scherzando. Naturalmente io non credo alle fate. Ma se fossero esistite, ho sentito dire che erano fastidiose, maliziose. Beh, addio, signora Blythe. Ripasserò la settimana prossima per il necrologio.